piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Questa è una grande battaglia di civiltà condivisa da tutti. L'obiettivo finale è quello di cambiare la Costituzione, quindi inserire un nuovo articolo nella Costituzione. Ci credete davvero? È fattibile? Ho depositato una proposta di legge che vuole modificare l'articolo 9. Oggi la Repubblica tutela solo il paesaggio, deve finalmente entrare anche la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, di tutte le specie animali, perché sono creature senzienti, hanno capacità di provare gioia, dolore, devono avere diritto al rispetto, ma anche a una diversa tutela giuridica. Ci sembra una iniziativa lodevole. L'onorevole Michela Vittorio Brambilla ha presentato a Milano il programma del suo movimento ambientalista, ma ha detto una cosa molto importante. Vorrebbe cambiare la Costituzione, introdurre comunque, modificare comunque una parte della Costituzione, favorendo comunque quelli che sono i diritti degli animali. Si parla del diritto di poter dare dei lasciti testamentari a favore degli animali, perché io non posso lasciare casa mia, i miei averi, tutto quello che ho accumulato in una vita al mio cane, al mio gatto, al mio serpente, al mio uccellino. Sicuramente si può fare questo, si potrebbe poter fare, oppure favorire un welfare che tenga conto anche degli animali. Ma giustissimo, perché pensare solo alle categorie deboli degli umani, ai poveri, ai malati, ai disabili? No, anche gli animali. Fare un meccanismo di welfare, tanto ce n'è per tutti, e pensi anche ai nostri amici pelosi a quattro zampe. E non fraintendete, non sto parlando degli orzacchiotti che vi trastullate, ma sto parlando degli amici animali, di cani, di gatti, di criceti, di topolini, di pappagallini, di nutri, di tutto quello che potete tenere in casa. Beh, questa mattina noi vorremmo fare un'operazione, se possibile utile, una radio di servizio. Vorrei riuscire a suggerire quelli che potrebbero essere i cambiamenti per categorie. Io so che ho un pubblico affezionato e attento alle problematiche dei nostri amici a quattro zampe. Io stesso mi sono oggi lasciato seguire da tutta una serie di persone interessate a questo tipo di problematica. Sono qui, stanno con me e diranno anche loro quello che è il loro punto di vista, ma anche voi ditelo. Quale è l'ambito in cui bisogna cominciare a lavorare? Sulla sanità a favore degli animali, sui diritti civili a favore degli animali, sulla libera espressione della loro sessualità? Non si parla comunque di matrimoni omosessuali tra animali, perché non si possono pensare? Oppure di sancire le unioni tra animali in qualche maniera, ancora prima. Cioè tutto quello che gli umani hanno conquistato per loro deve essere trasferito attraverso una norma costituzionale anche agli animali, perché è giusto così. Gli animali poi sono una popolazione variegata, e quindi bisognerà stabilire naturalmente quello che va bene per un cane non va bene per un serpente, e quello che va bene per un criceto non va bene per un elefante, e quello che va bene per una giraffa non va bene per un topolino. Quindi bisognerà essere molto precisi in questo. Ognuno di voi immagino che abbia delle competenze specifiche su alcuni generi di animali. Vediamo se riusciamo questa mattina a mettere insieme qualcosa di utile. Io partirei subito da qualcosa che abbiamo attinto dalla cronaca di questi ultimi giorni, che ci sembra già un primo passo avanti. Nessuno pensa, quando si parla di animali, ai nostri amici dotati di branchie e di pinne, i nostri amici boccheggianti. Nessuno parla di pesci, perché i pesci sono probabilmente nella scala degli animali d'affezione e da compagnia all'ultimo gradino. Perché? Perché i pesci non sono pelosi. Secondo, perché i pesci non si possono fare le coccole ai pesci. I pesci non te li puoi portare a letto. Insomma, i pesci sono i più reietti degli animali da compagnia, e quindi qualcuno si sta muovendo innanzitutto per salvaguardare all'inizio la dignità dei pesci. L'acquario, Fabio, ma di pazienza. Cosa? Ma l'acquario non è bellissimo? Ma che è un'idea della Brambilla. Ma perché della Brambilla? No, ma hai idea adesso arriva Cannavacciuolo, che fine fanno queste no, triglie? C'è anche il pesce balenga, che è dedicato a Luciana. Sì, anche c'è il pesce pirla, che è di là. Cosa gli dai da mangiare? La forfora di marzullo? No, c'è tutto il mangime, abbiamo tutto, guarda, ho il mangime, ho tutto pronto. No, ma la prima novità balzata agli occhi degli spettatori è stata indubbiamente la scrivania del conduttore, arricchita quest'anno da un grande acquario che ha immancabilmente attirato l'attenzione e le critiche di tanti detrattori. C'è chi ha fondato il movimento Liberazione Pesci Rossi E chi ha fatto notare, ma quei poveri pesci che si devono sorbire rumori ad alta intensità, luci, vibrazioni varie e la voce stridula della Littizzetto? In effetti più di qualche spettatore ha messo in guardia Fabio Fazio dagli animalisti più convinti, mentre c'è chi ha commentato: a me sconvolge che qualcuno possa davvero indignarsi per dei pesci in un acquario. Ho paura degli animalisti più dell'Isis. Ecco, vedete quanto è spietato e non viva la contemporaneità pieno, quella parte di umanità che dice che non capisce la protesta degli animalisti a favore dei poveri pesci nell'acquario di Fabio Fazio. Ma è giusto, i pesci non sono soprammobili, i pesci non vanno usati come oggetti di ornamento, sono esseri senzienti. Poi erano pesci carini, pesci con la cofana in testa, erano bei pescetti. Quindi per prima cosa bisognerebbe dare il diritto ai pesci di essere liberati dagli acquari. Via i pesci da tutti gli acquari. Dove vanno a finire poi? Beh, questo non è un problema che ci tocca in questo momento. Bisogna stabilire il principio costituzionale: i pesci non più negli acquari. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Prima telefonata. Allora, lei come se lei dovesse articolare, avesse carta bianca davanti, questa nuova parte importante della Costituzione a favore dei diritti degli animali, come inizierebbe? Quale sarebbe l'articolo 1 secondo lei? I diritti degli animali non possono essere vilipesi inserendoli in barzellette o foto su Facebook o in racconti e film che raffigurino la morte o la carcerazione. Cioè il diritto a non essere trattati con ignominia. Sì, beh, insomma, era un po' ironico, questo. Ovviamente. No, però non è ironico. Allora dovrebbe essere anche ironico dire facciamo un articolo della Costituzione a favore degli animali. Non è ironico, sì. Stiamo parlando seriamente e stiamo parlando a nome di un numero infinito di esseri senzienti che ci stanno ascoltando. Sicuro. E pendono dalle nostre labbra praticamente. Quindi lei direbbe basta trattarli come buffoni, quindi sì, evitare anche diciamo abbigliamento ridicolo, cappottini, scarpettine. Sì, però credo che su questo ci possa essere un codice penale, civile, non so, cioè mi sembra rimaneggiare una Costituzione per tutelare degli animali. Vabbè, se la Costituzione è per gli esseri umani. C'era un po' dell'ironia in questo. No, però ironia, però è stato detto, non è che lo dico io. Un presidente di una commissione parlamentare, un onorevole, quindi ha detto lavoriamo sulla Costituzione. Lavoriamoci seriamente, visto che io la prendo sul serio. Sì, allora bisogna dire. Vedremo sparire i gatti da Facebook finalmente. Hanno il diritto alla loro privatezza, alla loro immagine. Un effetto molto positivo. Come io non posso prendere la sua foto e metterla su Facebook e prenderla in giro, è un reato. Adesso anche con un gatto. Un gatto deve autorizzare l'uso della propria immagine. Anche le barzellette sui gamberetti che vanno ai cocktail le contornano, tutte queste cose. Quindi, beh, quelle sui cani e sui gatti. Voglio dire, ci sono delle cose, il lupo di Cappuccetto Rosso scomparirebbe, cioè ci sono degli effetti. Sì, però mentre noi abbiamo acquisito una capacità di controllo lessicale nel rispetto alle categorie più deboli, e giustamente non vanno usate in maniera denigratoria, su questo non sto scherzando, andrà allargato anche agli animali. Quindi non si potrà nemmeno dire porco cane? Ma questo diventerebbe un grosso problema. Ma chi offende porco cane? Il porco o il cane? Questo è un dramma. È un dramma perché il porco potrebbe essersi aversela male, essere paragonato a un cane, e il cane essere paragonato a un porco. Beh, sicuramente solo con l'articolo 1 si aprono. L'articolo 1 ovviamente. Ma non è che si farà in 5 minuti. Si aprono veramente delle. I padri costituzionali dovranno rimettersi davanti a un tavolo e dice: beh, abbiamo ragionato sugli umani e ragioniamo sugli animali. Quindi lei comunque. Lei parte bene perché lei parte da un principio di tipo etico e morale: dare innanzitutto dignità. La nostra è una repubblica fondata sul lavoro, se si pensa agli animali, fondata sulla dignità degli esseri a quattro zampe. Vito. Pronto? L'ascolto. Sì, aspetta che non la sento bene. Intanto do il numero 800240024, cominciate ad aiutarci a compilare questa Costituzione. Io già metto all'articolo 1 dignità, diritto alla dignità. Lei cosa suggerisce, Vito? Sì, allora, come primo elemento della Costituzione vorrei mettere l'obbligo, oppure l'obbligo volontario per gli animalisti a fare gli esperimenti scientifici al posto degli animali. Cioè, no, la spieghi un po' meglio. Cioè, siccome la loro battaglia è contro gli esperimenti scientifici medicine, la scienza. Quindi non usare animali per sperimentazione. Sì, salvare gli animali, tutti gli animali, e allora proporsi loro volontari per fare esperimenti sulle medicine. Ma questo chi? Loro chi? Gli animalisti? Gli animali no, solo per gli animalisti, sì. Ah, lei ironia la sua. No, lo spieghi l'ironia. No, è proprio, cioè, siccome io mi ricordo anni fa andarono gli animalisti a salvare. Sì. No, ha tolto dagli stabulari del CNR, salvarono tanti topolini, che poi poverini, topolini. Sì, ma anche quei cani in quella vabbè, adesso però io non voglio giocare sulla facile ironia su questo, vorrei essere zero, la prego. Lei comunque aggiunge il fatto, naturalmente ribadire il fatto, ma questo va da sé, noi parliamo dei diritti che sono impalpabili perché la gente non li riconosce agli animali. Chiaro, il primo diritto è non essere maltrattati, non essere uccisi, non essere usati come alimentazione degli umani, ma questo va da sé, questo è la premessa, se no non se ne parlerebbe nella Costituzione. Ma andiamo avanti, io vorrei suggerire anche degli altri aspetti. Oggi parliamo del cane in aereo, che è un argomento che spesso divide l'opinione pubblica. I regolamenti variano molto da compagnia a compagnia. Alcune compagnie aeree non permettono che nessun cane viaggi in cabina, mentre altre permettono il viaggio in cabina solo a cani di piccola taglia che vengono tenuti nei trasportini, oppure ai cani guida che viaggiano gratis, purché siano tenuti al guinzaglio e indossino la museruola. Tutti gli altri viaggiano in stiva. La stiva ovviamente è pressurizzata e climatizzata, ma nel caso ci fossero scali è sicuramente importante andare a visitare il cane, offrirgli conforto, dargli l'acqua e così via. Il cane deve essere ovviamente già abituato a viaggiare nel trasportino. Cioè, tagliamo qua, sennò entriamo troppo. Allora, il cane deve avere diritto alla mobilità, anche il gatto, anche gli ogni qualsiasi tipo di animale. Cioè non usare, come nei tempi terrificanti, l'apartheid in Sudafrica, che c'erano gli autobus con una sezione per i neri e una sezione per i bianchi, non c'è da essere distinzione e discriminazione nei mezzi di trasporto tra uomini e animali. Quindi in aereo uno può avere seduto un gatto vicino, un cane vicino, uno scimpanzé vicino, non nella stiva, non in settori separati. Quindi diritto totale di viaggiare assieme agli animali. Questa mi sembra una bella norma. Filippo. Sì, buongiorno. Mi interessa particolarmente perché per lavoro mi sono occupato di ambiente. Un dato è vero, cioè che la parola ambiente nella nostra Costituzione manca. Manca perché quando i nostri padri hanno fatto la Costituzione c'era il paesaggio, nel senso che c'era già una comunità installata, quindi nel paesaggio e nella forma del paesaggio c'era tutta la tutela che si poteva immaginare. I nostri padri costituzionali hanno cementificato l'Italia, quindi forse magari è tutta... Diciamo... Però certamente arrivare a tradurre qualunque emozione, qualunque affezione verso un animale in diritto mi sembra una pretesa eccessiva, anche perché la parola dignità è già nella nostra carta costituzionale. Sì, ma per gli umani, quindi... non per gli animali, va estesa. E per gli umani sì, certo, c'è tutto. Ma... In realtà c'è per tutti, perché non voglio entrare nel tecnicismo, ma l'articolo 3 dice che tutti hanno pari dignità, non dice né tutti i cittadini né tutti gli italiani. Lei però dà un'interpretazione interessante, forse non ci sarebbe nemmeno bisogno, su quel tutti si dovrebbe ragionare. Quando dicevano tutti, c'hanno tutti. Tutti sono tutti, al massimo uno può fare uno statuto come... Ma allora tutti, non è soltanto gli animali, allora anche, che ne so... I bruchi, le processionarie del pino, le piattole del pube umano, tutte devono avere la stessa dignità. Questo in di massima. E se no discriminiamo, che l'ha fatto una piattola rispetto? Perché il gattino è carino, si vede, pelosino, sorride, fa le fusa. La piattola è fastidiosa, non si deve grattare, ma anche lei ha diritto a vivere, se no dovremmo discriminare come orrendamente si discrimina tra gli animali. Quindi guardate che è difficile, ma ci arriveremo, siamo già sulla strada buona. Suggerisce l'ascoltatore Filippo che in realtà già c'è nella Costituzione tutto. I padri costituzionalisti avevano già previsto questa deriva animalista, hanno detto, hanno messo tutti, hanno messo anche gli animali. Ma siete sicuri? Non bisogna discriminare con nessun animale? Io sarei per metterci tutti, ma proprio tutti. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Melog. Dici mamma. Mamma. Della stampa. Mamma. Mamma, ma ti faccio anche una papà buona oggi. Mamma, facciamo la pasta asciutta con le polpettine. Sì, la vuoi tutta la papà, amore? Mamma, ma sei brava, vieni a dare un bacino anche alla mamma, vieni. Pronto, Attila? Chiama mamma. Mamma. Attila. Mamma. Come vedete, già delle punte più avanzate nella civilizzazione stanno già operando per cominciare, attraverso degli esperimenti, dei seminari, a capire quali possono essere i campi in cui la Costituzione può essere allargata anche ai nostri quattro amici a quattro zampe, ma non soltanto loro, anche a quelli a otto zampe, anche quelli che strisciano, anche quelli che volano, anche quelli senza zampe, come i lombrichi, perché anche il lombrico ha diritto comunque ad essere inserito nella Costituzione. In questo caso si parla del diritto all'istruzione. Bisognerebbe mettere nel dettame costituzionale il diritto all'istruzione. Gli animali devono essere istruiti a conoscere almeno una lingua umana, se no non si può parlare. Ma ci deve essere una sorta di pari diritto al bilinguismo, quindi gli umani a scuola, oltre a imparare l'inglese, il francese, il latino, il cinese, altre lingue pressoché inutili perché servono soltanto a comunicare tra umani e quindi non c'è quell'integrazione che noi cerchiamo, imparare anche una lingua degli animali. Cioè, ragazzi, bisogna insegnare ad abbaiare, a miagolare, a squittire, almeno una lingua animale. Gli animali sapranno una lingua umana e gli umani sapranno una lingua animale. Vi dico altri spunti che arrivano agli SMS. Diritto a pari uso nelle strutture abitative, cioè a cani e gatti deve essere dato l'accesso ai servizi igienici, perché deve essere portato fuori col freddo, col sacchetto, con la cosa ignominiosa? Deve farlo nella tazza e usare il bidet che usano i suoi uomini, amici a due zampe. Avere dei letti e non delle lettiere, questo è un altro suggerimento. È giusto che il gatto abbia la lettiera, quell'ignobile cassetta piena di sabbia buttata in un angolino. No, deve avere un letto con le lenzuola, con il piumino, con le federe, con il cuscino. Diritto alla riservatezza dell'intimità sessuale. Allora, l'accoppiamento fra animali avviene sempre in presenza di umani, perché stanno lì, guarda, dai, bellino, ce la fa, non ce la fa. No, devono avere degli appositi luoghi dove possono svolgere le loro funzioni amorose, sentimentali, sessuali, erotiche, quindi delle aree riservate dove gli animali possono far l'amore. Diritto al pudore, reggiseno alle cagne, ma anche alle mucche, naturalmente, anche alle cavalle, anche alle somare, a tutte, e mutande, perché, scusate, il vostro cane perché anda in giro con il ciondolo di fuori? Vabbè che la natura gli costruisce una sorta di guaina naturale, ma ogni tanto sfodera quella cosa rossa, per lui è una vergogna, mutande per i cani. Ultimo, diritto alla cultura, avete visto, lo stiamo già applicando. Nicola, buongiorno. Buongiorno, io purtroppo devo contrastare molto questo tipo di scelta, perché allora, la Costituzione... Però perché ha telefonato, scusi? Oggi proprio per litigare. Ah beh, litighiamo, se ci riesci, io non litigo mai con nessuno. Adesso pongo proprio un problema del tipo legale, nel senso che se la Costituzione ce la siamo autodeterminati noi, perciò ce la siamo scelta noi... La Costituzione degli animali se la dovrebbero scegliere gli animali. Oh, se no, noi a questo punto, Nicola, siamo sfonda porte aperte. Esattamente quello che stavo per dire io. Ecco, allora vedi che no, legge è la cosa più intelligente che potesse essere detta finora. Ci stiamo ragionando, ma capisca che a un momento stiamo costruendo la civiltà, quindi possiamo un attimo avere dei tempi di reazione un po' più lenti. È giusto che ci sia una delegazione di animali, rappresentanti di tutte le specie animali, che partecipi comunque a quella che è l'assemblea costituzionale, perché sennò è troppo facile, gli uomini fanno le leggi anche per gli animali, dov'è la parità, dov'è il riconoscimento? Quindi, assolutamente. Valgono queste norme salvo una consultazione attiva, propositiva da parte di una delegazione di animali, quindi bisogna cominciare a costituire una sorta di camera di animali che entri nei luoghi in cui si determinerà il cambio della Costituzione e porti il suo contributo. Devo già cominciare le audizioni, devo entrare gli asini in Parlamento e cominciare a essere ascoltati da una commissione che penserà a cambiare la Costituzione, gli asini, i cavalli, ma tutti, anche i cammelli, anche gli elefanti, le giraffe no, perché non possono parlare. Quindi Nicola dice giustamente, cominciamo dalla base, creiamo comunque una sorta di organismo che in collaborazione, in piena fratellanza, aiuti gli umani a fare questa Costituzione. Bravo Nicola. Patrizio. Oh, sì, buongiorno, eccomi qua. La sto ascoltando, io le parlo. Nicola è veramente un genio perché mi è piaciuto un sacco. No, ma ha ragione, ha detto la cosa fondamentale, nemmeno la Brambilla ci aveva pensato. Perché se ci pensa bene, la proposta della Brambilla è fortemente vessatoria. Facciamo delle leggi per gli animali. E no, sentiamo gli animali Magari gli animali dicono, ma noi non ce ne frega niente degli umani. Noi non vogliamo più stare a guinzaglio. Non vogliamo essere accarezzati alla brambilla, ci lascia tutti quei capelli rossi addosso, poi dobbiamo spazzolarci. No. Io al posto dei crini di cavallo, i capelli della brambilla, no, no, perché dobbiamo vessare queste belle? Ma io se fossi un asino non vorrei mai essere accarezzato. Direi, ma perché mi accarezzi? No, no. Ma quindi, perché mi accarezzi, è vero? Perché mi tocchi? Perché devi toccarmi che magari io non voglio? Certo, mi porti a letto, abbiamo fatto la missione e porto gli animali a letto. Cioè lei si farebbe portare a letto da viene un cavallo e dice ti porto a letto. Dice no cavallo, io a letto con te non ci vengo, almeno conosciamoci. È la stessa cosa, perché io posso portare a letto un cane senza chiedere il suo consenso, è giusto? Ma anche perché poi magari è il cavallo che vuole portare noi nel fieno e noi dobbiamo andare a letto. Si figuri. Non ha senso, secondo me, proprio. Il cavallo liberamente fare quella grossa quando sta a letto, per lui è normale, noi magari non ci sta bene, o viceversa. Quindi va bene. Allora, favorire cosa? Favorire una cosa, diceva lei, Manuele, esattamente, no, allo specifico. Io sulla falsa riga di Nicola, perché secondo me bisognerebbe anche dare il diritto di libera associazione a questi animali. Non abbiamo mai detto questo. Noi facciamo i partiti animalisti, ma... Guarda, hai detto una cosa ancora più giusta. Noi facciamo i partiti animalisti, ma è come se fosse un'imposizione che viene dall'alto. Noi ancora manteniamo questa idea del predominio della stirpe umana. Dovrebbe esserci la libera costituzione di partiti fatti dagli animali. Noi facciamo partiti senza animali. In Italia non c'è un partito che dia una tessera a un animale. Lei conosce persone di partito che siano animali? No, non ci sono animali nei partiti italiani. Ci devono essere anche gli animali. Cioè il partito di animali. Così ma ci devono essere. Ma io Gianluca pensavo anche proprio banalmente al lavoro, cioè se quattro gatti decidono che fondano una ditta per deragliare, certo, devono poterlo fare, certo. Cioè avere quattro gatti che pagano i contributi, ci aiutano per la pensione, aiutano anche loro, e secondo me possono fare un SRL, possono fare una cosa che abbia comunque anche una sua trasparenza dal punto di vista fiscale. Perché il gatto deve mangiarsi, scusi, una cosa per i familiari. Perché il cane deve fare la guardia senza che questo sia a fronte di una retribuzione? Perché non deve pagare le tasse, la pensione. Scusi, perché gli animali non possono accumulare la pensione? Non ci ho mai pensato. Si fa male mentre fa la guardia? Certo, un'assicurazione. Guarda che è un problema complesso. Emanuele, io trovo che io e lei ci troviamo molto d'accordo. Sentiamo, Patrizio, scusi, Emanuele ha un suggerimento più specifico. Emanuele. Sì, sono pienamente d'accordo con voi. Innanzitutto ciao a tutti, complimenti per il programma. Sono un po' emozionato perché è la prima volta che parlo. E poi anche è un tema che in questo momento stiamo aggredendo un'area vergine del diritto. È un momento importante. Allora, lei cosa suggerisce, Emanuele? Io sto vivendo una cosa sensazionale, perché una storia sensazionale, e proprio si allaccia al vostro discorso, certo, pienamente. Io odio i rapaci, sono un falconiere, e mi reputo professionista perché sono... Come odio i rapaci? Se è un falconiere, ama i rapaci. No, no, odio i rapaci. Dei rapaci, sì. Capito, odio i rapaci, non si sì, può. E pratico, cioè il fratello Aquilotto, il fratello Sparviero, il fratello Falcone. Animali. Ho dieci stelle di rapaci, con tutti con il nome, tutti, e praticano e pratico con loro un mestiere. Cioè io li faccio lavorare, cioè lavorano con me, io lavoro con loro, via praticamente. E quindi devi metterli in regola, giustamente. Sì. Allontanamento dei piccioni negli stabilimenti in modo naturale, senza far del male al piccione. Allora loro vanno lì, dicono fratello piccione, gentilmente ti allontani, e si allontana. Ecco, funziona come un po' come il cane da guardia, cioè, praticamente i rapaci si sentono a casa loro. L'uccello da guardia, allora, una cosa, istituiamo la figura dell'uccello da guardia, che giustamente deve essere retribuito. Certo. Ritribuito anche in base alle sue dimensioni, perché un falchetto meno di un aquo, naturalmente. Infatti, quindi stabiliamo un range di retribuzione degli uccelli da guardia in base alla loro misura, diciamo. Bravo, ma come si può fare, allacciando il discorso anche della un'indagine del mercato, si fa un'indagine di mercato. Lei che è un esperto, lei deve essere chiamato in una commissione parlamentare apposita, bicamerale. Cioè tu che ti intendi di uccelli rapaci, secondo te quanto daresti a un'aquila, quanto daresti a un falcone? E in base a questo stabilire un minimo sindacale, poi naturalmente anche istituire dei sindacati a difesa dei diritti degli animali lavoratori. Siamo sulla strada giusta, a tra un istante. Faircam Air and Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta... Okay. È con me da 3 anni, è una cagna, una bulldog femmina di 3 anni. Pica ha fatto tutti i corsi di formazione che ho fatto io, quindi è certificata come cane da terapia. È un cane di allerta medica. Pica riconosce quando se una persona con diabete gli si sta alzando il diabete, quindi con un segnale specifico avvisa. Però questo è, lo ha ma è in pausa, non è per questo, lo fece in un corso e poi ha, diciamo, un alto livello di addestramento e di educazione per poter avere l'accesso pubblico e non, ed essere, diciamo, quello che chiediamo noi. Alcune posizioni di avanguardia, il cane che misura l'insulina, quindi un duplice settore, l'accesso a tutte le professioni, anche le professioni che hanno a che fare con la sanità. I medici possono cedere qualcosa del loro spazio anche agli animali. Il cane che misura l'insulina ha diritto magari di stare in una farmacia. Già nella premiata farmacia delle sorelle Barletta a Piazza Repubblica c'è un pastore tedesco che misura l'insulina, c'è l'attrezzo per misurare la pressione, quello per misurare l'altezza, e c'è un pastore tedesco, e andate lì, gli mettete un euro nell'apposita botticella che porta al collo e lui dà un'annusata e vi dice il tasso di insulina. È un momento d'avanguardia, ma arriveremo anche a questo. Arrivano altre telefonate: diritto alla pensione di vecchiaia, naturalmente, diritto alle unioni interspecie, perché noi parliamo soltanto dal punto di vista di umani. Ah, mi piace il mio gattino, il mio cagnolino, ma se un rinoceronte si innamora di un'umana, perché non possono felicemente vivere assieme, convivere, fare dei figli? Allora, diritto alle unioni interspecie. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, visto che stiamo dando tutti questi diritti, i doveri, le tasse non le dovrebbero pagare voi? L'abbiamo già detto, quando avranno una legittima retribuzione pagheranno le tasse. Allora mi sta bene, certo, va bene, sono d'accordo su questo. A questo sicuramente, anzi, sono convinto che gli animali non saranno evasori fiscali, sono onestissimi. No. Figuriamoci, io penso la dichiarazione redditi di un gatto sarà perfetta. Vorrò vedere quanta gente poi manterrà il proprio animale. Certo, l'animale. Ma perché deve essere mantenuto l'animale? L'animale è autonomo. Se l'animale ha un riconoscimento costituzionale della sua esistenza, con tutti i suoi diritti, l'animale si comprerà una casa, accenderà un mutuo, ma in banca troverà un altro animale che in banca diventerà come un fumetto di Walt Disney in cui gli animali stanno al posto degli uomini. E lei ride, ma la deriva sarà questa, finalmente. L'importante è che collaboreranno pure loro al mantenimento dello Stato. Ma le pensi bello il giorno che avremo un animale per Presidente del Consiglio? Sarà un momento di grandissima civiltà. Adesso non vorrei essere cattivo. No, adesso devo fare la battuta, ce l'abbiamo già avuto. No, ma un animale vero. Lei immagini un bel tricheco con lo smoking tutto bello, oppure un grande giudice i trichechetti vicino. Ma no, trichechetti, con vicino altre persone, con esseri umani, con giraffe, con opossum, con qualunque animale. Dario, buongiorno. Buongiorno. Ma andiamo avanti con le proposte serie, sennò gli scettici ci fanno perdere tempo. No, il mio è un discorso molto serio, perché anche il mio, che sto scherzando. L'estinzione dei diritti a tutti i tipi di animali, indipendentemente dalla razza, dalla specie. Abbiamo capito anche un allargamento con dei doveri, quindi dei doveri. Dalla lingua e dalla religione. E allora bisognerà. La religione non abbiamo parlato, però libera espressione anche del culto religioso. Espressione del culto religioso, però volevo estendere l'idea, ovviamente i diritti devono essere. Sarà reintrodotto, scusi, il culto di Anubi. Sicuramente i cani vorranno un dio con la testa di cane, se no che mica possono accontentarsi del nostro con la barba, gatti, o col turbante. Per non parlare dei gatti. Gli elefanti sono ovviamente delle culture orientali. Sì, l'elefante ce n'è già tonnellate di divinità. No, ma il mio discorso è un pochino diverso, perché volevo dire che bisognerà estendere, indipendentemente dalla proprietà della biologica dell'organismo, e quindi estendere per esempio agli organismi unicellulari, che sono comunque animali, oppure ai batteri. Agli unicellulari, sì, va estesa, in effetti va estesa, ecco, sì. E i batteri, i virus, perché un virus, scusi, un virus non ha diritto. Il virus è un po' diverso, perché il virus è un po' a metà tra un organismo organico e inorganico. E lo vuole discriminare. Noi difendiamo l'embrione nell'attimo in cui lo spermatozoo entra dentro l'ovulo, già è un essere umano, qualcuno dice. Benissimo, siamo d'accordo. Allora anche il virus ha una sua dignità di essere senziente in qualcosa. Mi fa venire una malattia, è colpa sua o merito suo, quindi anche lui deve in qualche maniera essere regolamentato, non dico tutelato, regolamentato. Quindi anche per i virus ci deve essere comunque una legge che determini comunque quelli che sono i loro doveri, i loro diritti, gli ambiti in cui si possono muovere, la maniera in cui possono anche gestire il loro tempo libero, perché mica il virus deve stare solo lì tutto il tempo a girare, a correre, a cercare, a combattere con gli antibiotici, con gli antivirali. No, anche lui avrà un momento, diritto a un certo punto di andare in pensione. L'età pensionabile per i virus qual è? Bisogna capirlo. Aurelio. Avevo una grande stima di lei, avevo. E adesso l'è crollata miseramente, lo so. Ma no, assolutamente. Insomma, quando poi, si impugnano idee impavide per primi, è chiaro che si è impopolari. Ognuno di noi ha la propria opinione. Se lei tratta la sua trasmissione agli anni 50 negli Stati Uniti, in cui si parlava dei diritti degli uomini di colore, avrebbe avuto lo stesso effetto. Vede, siamo all'avanguardia. Sollazzo e riso. Esattamente, lei dice una cosa giustissima. Ci adeguiamo alle sensibilità dei tempi, lo so. Le dico una cosa, no, voglio finire un concetto, poi può esporre il suo. Noi parliamo, sì, io non mi interessa della brambilla, assolutamente, io sono un animalista, ma non mi interessa la brambilla, non mi interessano i partiti, non mi interessa niente. Mi interessa soltanto il diritto alla vita che ha un essere vivente, che sia esso un animale, che sia esso un uomo, cioè il diritto alla vita, il diritto a non soffrire, il diritto a non essere portati, ammassati in camion e ghettizzati, uccisi come si faceva nei lager di concentramento. Aurelio, non è che la voglio, manca un minuto alla fine, non voglio, però lei ha espresso giustamente quello che è il dibattito a questo punto, in questo momento. Chi, diciamo, si sente dalla parte dell'antispecismo, dicendo gli animali sono esseri senzienti, combatte su questi problemi di tipo concreto, no agli allevamenti intensivi, no alla sperimentazione animale, no a pene molto più gravi a chi tartassa gli animali, è giustissimo. Però noi stiamo andando avanti, logicamente poi ci si porrà anche il problema dei diritti anche legati a una sfera che non è soltanto quella concreta. E sul filo dell'ironia l'avrà capito, mi dispiace che abbia perso la sua stima, lei mi capisce, io, come si dice, fustigat ridendo mores, è una maniera anche per far riflettere le persone. Quindi lei sta combattendo sull'attualità, noi combattiamo sul futuro, combattiamo, prefiguriamo quello che potrebbe essere un futuro. Lorenzo. Sì, esatto. Velocemente. Io sono su tutta la sua linea, sono d'accordo, devono lavorare, eccetera, però mi sorge un dubbio. Se lo devo licenziare, come facciamo lì con la cassa integrazione? Le rispondo subito in maniera lapidare e concisa. Ammortizzatori sociali per gli animali che perdono il posto di lavoro. Mi sembra logico. Alla prossima.